in forma di bastarda dittatura. Vivi allegro, tremate maiali, salgo delle solite trovate commerciali. Lorenza Bovina è il grido di battaglia, la mia rivoluzione comincia dalla paglia, dai capi, dalle stalle, dagli